senza sorrisi questo viso. Apro la porta e il buio intorno. Dammi la mano, fratello lontano. La vita ci chiama, ha bisogno di noi. Come il sole che riscalda. Siamo qui ad aspettare, senza più lacrime e paura. Il mio sguardo cerca la luce. Occhi tristi cercano umanità. E diritti di libertà. Tra le braccia la speranza. E nel cielo l'arcobaleno. Lontano nel mondo si sente un pianto. E grida di pace contro la guerra. Lontano nel mondo, vicini nel mondo. Lontano nel mondo, ma questo mondo siamo noi, noi, noi, noi. Guarda quante facce tristi, piene di dolore, sono ferme qui. Oltre il muro c'è un nuovo orizzonte che segna la via alla non violenza. Apri il tuo cuore e la coscienza. Dare a tutti i popoli felicità. Senza distinzione né di razza e di colore. La terra è di tutti e non calpestare. Le voci del coraggio si sentono nel vento. Di tanti colori siamo noi. Vogliamo cambiare il mondo che soffre. Sconfiggere l'odio e la povertà. Lontano nel mondo si sente un pianto e grida di pace contro la guerra. Lontano nel mondo, vicini nel mondo. Lontano nel mondo, ma questo mondo siamo noi, noi. Noi, noi.